24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Voto in Germania e crisi della Grecia, borse a piccolo, spread supera i 430 punti, bruciati 120 miliardi di euro, la Merkel ad Atene, meglio se restate nell'euro. Mercati destabilizzati dalle incertezze sul quadro politico ellenico. Consob, monito del presidente Vegas, senza fiducia non può esistere il mercato finanziario. Direttiva dell'Unione, la tariffazione stradale europea non deve discriminare gli automobilisti stranieri. Cinema, il G8 di Genova arriva a Bruxelles, oggi la proiezione del film sull'assalto alla scuola Diaz. Benvenuti da Paolo Panceri a questa nuova edizione di 24 ore in Europa. In apertura le novità politiche dalla Germania e dalla Grecia. La cancelliera Angela Merkel fa buon viso al risultato negativo delle elezioni in Nord-Reno-Vestfalia, in cui la CDU ha subito una netta sconfitta da parte dell'SPD. La cancelliera ieri si è rivolta anche al governo di Atene. Credo, ha detto, che per la Grecia sia meglio restare nell'eurozona. Dello stesso parere anche il ministro degli esteri belga ed ex ministro delle finanze di Didier Reynders. L'uscita greca dall'euro, ha reso noto, sarebbe una catastrofe che esporrà l'eurozona al rischio contagio. E le incertezze sul quadro politico greco comandano in rosso le borse, bruciati 120 miliardi di capitalizzazione, Milano è arrivata a perdere il 3%, lo spread ha superato i 430 punti. Una Grecia fuori dall'euro non è più un'ipotesi tabù, ma fa vivere un lunedì nero le piazze continentali che bruciano circa 120 miliardi di capitalizzazione. Lo stallo politico ad Atene, che prospetta l'ipotesi di un'uscita dalla moneta unica, i guai delle banche spagnole, nonché il ritorno dell'incubo derivati, hanno portato in basso i listini di tutta Europa. La borsa di Atene ha perso un altro 4,6%, mentre Milano è stata la peggiore tra le piazze principali, toccando i minimi dell'anno e chiudendo in calo del 2,74%. La tensione e l'avversione al rischio si sono riflettute in una parziale fuga dall'euro, scivolato fino a 1,2824 dollari, e in un nuovo ampliamento degli spread tra i titoli di Stato dei paesi periferici e quello tedesco. Lo spread sul decennale spagnolo ha superato i 490 punti, quello sui BTP italiani si è spinto fino a 435 punti, con il rendimento del decennale a sfiorare il 6%. Andrea Fontana da Radio Cor per Radio 24, il Sole 24 Ore. E a proposito dello spread, il presidente della Consob, Giuseppe Vegas, nella sua relazione annuale ha lanciato l'allarme speculazione, sostenendo che ormai viviamo in una dittatura proprio dello spread. Oggi più che mai c'è bisogno di fiducia, senza di essa non possono esistere le istituzioni, le imprese e il libero mercato, ha concluso Vegas. Sentiamo la microfono di Simone Spezia. I governi perdono in una fase di difficoltà quando vanno al voto, quindi anche se un governo ha governato bene, però rischia di perdere perché c'è sempre un elemento di ribellione. Questo fa parte della fisiologia dei sistemi elettorali, mettiamola così. È chiaro che però forse anche i tedeschi si stanno rendendo conto che possono avere qualcosa da perdere più che da guadagnare in una politica di stretto rigore. Intendiamoci, il rigore è indispensabile perché non si possono buttare via e sperperare risorse pubbliche, però bisogna stare molto attenti che se noi competiamo con delle masse continentali come gli Stati Uniti, la Cina, l'India e cose di questo genere, e questi corrono con due gambe, e noi con il sistema che è stato adottato nelle finanze pubbliche corriamo con una gamba sola e quindi rischiamo veramente di farci male. Per una fase di tempo magari limitata, però forse un allentamento anche sotto un profilo della valuta forse sarebbe desiderabile. Il settimo comandamento dice non rubare, due parole. Il nostro codice penale, a parte il furto, è regolata da 827 parole. Mi domando, ci sono più furti adesso o all'epoca di Mosè? Più ottimista il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, presente alla relazione. Il capo dello Stato invita alla fiducia. Ma insomma, di annus horribilis ce n'è stato più di uno nel corso della mia generazione, anche più orribili. Comunque è stato abbastanza brutto questo ultimo. Ci sono le condizioni per venirne fuori. Speriamo. Fiducia, arrivederci. I sistemi di tariffazione stradale nell'Unione Europea non devono discriminare gli automobilisti stranieri. È il messaggio di una comunicazione della Commissione Europea per assistere quegli Stati membri che stanno studiando la possibilità di introdurre nuovi sistemi di pedaggio per le auto private. La non discriminazione è un diritto fondamentale in base alla normativa europea. Un cittadino britannico o francese deve poter attraversare la Slovenia o il Belgio con la stessa facilità di un automobilista residente, ha commentato il commissario europeo ai trasporti Siim Kallas. I sistemi di tariffazione stradale devono essere trasparenti ed equi per tutti. La direttiva europea Eurobollo fornisce un elenco trasparente dei costi che possono essere addebitati ai veicoli pesanti, come i costi dell'infrastruttura e dell'esternalità, cioè l'inquinamento atmosferico e acustico, spiega la Commissione. Ora andiamo in Russia. Irritata dalle critiche occidentali per gli arresti di oppositori e i limiti alla manifestazione di piazza, la Duma russa, cioè il ramo basso del Parlamento, dedica una seduta ai problemi legati al rispetto dei diritti dell'uomo negli Stati dell'Unione. E subito arriva la prima bordata. Il rappresentante permanente russo presso l'Unione, Vladimir Chizov, si è detto preoccupato che l'Unione Europea non abbia ancora aderito al principale strumento giuridico del Consiglio d'Europa, ossia la Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Nel corso della seduta sono state sollevate le questioni delle marce neonaziste nei paesi baltici, della discriminazione in quegli stessi paesi verso i cittadini di nazionalità russa e dei diritti dei cristiani in Gran Bretagna. Sapevano quello che facevano, conoscevano la pericolosità dell'amianto, ma non si sono fermati né hanno pensato di dover attuare comportamenti per limitare l'inquinamento e migliorare l'ambiente di lavoro. Queste le motivazioni depositate ieri al Tribunale di Torino della sentenza di condanna a 16 anni di carcere per i due imputati del processo Eternit, il magnate svizzero Stefan Schmidheiny e il barone belga Louis de Cartier. Al microfono della nostra Giorgia Mennuni, il procuratore Raffaele Guariniello, il magistrato che dal 2009 cerca di dimostrare la condotta dolosa degli imputati. Guariniello spera che episodi del genere non si ripetano più. Il problema della, della virtuosità o meno delle imprese è un problema più che mai all'ordine del giorno. In un momento storico in cui il paese vive una difficile crisi economica, e quello che diventa molto importante per le istituzioni è quello di far sì che le imprese non subiscano la pressione di vincoli meramente burocratici e formali, ma che però rimanga sempre fermo che c'è un vincolo che ci arriva sia dalla Costituzione sia dalle direttive comunitarie, ed è che occorre salvaguardare la salute sia di chi lavora nelle fabbriche sia anche dei cittadini, perché il problema posto dalla sentenza è anche un problema di tutela della salute dei cittadini. Cambiamo pagina e parliamo di cinema. Sergio Cofferati porterà nella sede di Bruxelles del Parlamento Europeo Diaz Don't Clean Up This Blood, il film sull'assalto della polizia alla scuola di Genova durante il G8 del 2001. Alla proiezione, prevista oggi, sarà presente il regista Daniele Vicari. Accogliere il film al Parlamento Europeo, afferma l'eurodeputato PD ed ex segretario della CGIL, ha un evidente significato simbolico, dal momento che rappresenta la volontà di non dimenticare gli episodi di grave violenza e di inaccettabile violazione dei diritti umani avvenuti nel 2001 a Genova e di continuare a lottare per ottenere verità e giustizia. Calcio in chiusura, si avvicinano gli europei in Polonia e Ucraina e il CT della Nazionale, Cesare Prandelli, sta ultimando la scelta dei giocatori. Ieri Prandelli ha presentato la prelista dei 32 giocatori azzurri convocati. Se attaccanti, per quanto mi riguarda, per come vogliamo giocare noi, sono più che sufficienti. La scelta su questi 6 attaccanti è stata una scelta sicuramente tecnica. Rientrano in quei giocatori dove possono avere la possibilità di esprimersi al 100% in questo contesto di squadra. Ancora calcio tra Italia e Inghilterra questa volta. All'ultima giornata di campionato Roberto Mancini vince la Premier League inglese con il Manchester City. Il gol della vittoria del 3-2 sul Queen Park Rangers è stato segnato al 94esimo. L'assist del gol vittoria di Aguero è stato di Balotelli, ma sentiamo Mancini. Io credo che le vittorie siano tutte belle, no? Però sicuramente è stata la vittoria più sofferta, la vittoria quando le cose magari sono un po' più sofferte sono più belle. No, gli ultimi 5 minuti sono stati incredibili, però credo che alla fine, insomma, noi abbiamo meritato di vincere questo campionato. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Un grazie in studio a Daniele Teruzzi e un saluto da Paolo Panceri. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.